Benvenuti ancora una volta su Pink Moon, su www.transizionedifase.org. Quest'oggi una puntata interamente dedicata ad un genere musicale, anche se ovviamente non è molto ben visto il fatto di apporre delle etichette quando si parla di arte, però spesso ci servono le etichette. Il genere che prenderemo in esame quest'oggi si chiama post-rock ed è quello che ha dato vita a formazioni oggi seminali e importanti come Sigur Rós, Mogwai, Godspeed You Black Emperor, per poi finire anche nel mat con i Battles, insomma centinaia di formazioni che hanno imparato la lezione principalmente di Louisville e Chicago, queste due città dove nei primi anni 90, verso il finire degli anni 80, nei primi anni 90 si è cercato di destrutturare il rock che in quegli anni Nirvana e Soundgarden e tutte le formazioni del grunge stavano cercando di rinverdire, di riprendere. Iniziamo con gli Squirrel Bait perché c'è Brian McMahon, poi chitarrista degli Slint, che daranno vita appunto al capolavoro di questo genere, al disco che poi ha dato vita a tutto il resto, ossia Spiderland. Brian McMahon, chitarrista poi degli Slint, ha iniziato nel 1986 con gli Squirrel Bait e con Skag Heaven dell'86 appunto si dà il via a questo tipo di destrutturazione, anche se siamo sempre su lidi e territori molto aggressivi per il momento. Comunque questi sono gli Squirrel Bait con Virgil's Return e ci sentiamo dopo. Sempre qui per passare dopo gli Squirrel Bait, per passare al vero punto di svolta. Nel 91 gli Slint danno vita a Spiderland, questo disco sul quale si sono sprecati chili di inchiostro e che principalmente andava a destrutturare, a ripensare totalmente il concetto di sia di forma canzone sia di rock in sé per sé, perché proprio mentre a Seattle il grunge la faceva da padrone, quindi il classic rock, l'hard rock veniva rimescolato con diciamo atmosfere un po' più cupe, a Louisville si andava proprio nella direzione contraria, ossia cercando di far capire che magari il rock poteva anche essere superato, se non superato magari riformulato. Con Spiderland, gli Slint, che ovviamente con Brian McMahon vedevano già delle influenze, delle sfumature post-hardcore, superano l'hardcore, superano il modo furioso di approcciarsi alla musica e vanno verso la psichedelia, vanno verso questo nuovo genere cui danno vita, chiamato appunto slowcore, ritmi estremamente lenti al limite del catatonico, e loro insieme poi ai Codein danno, i Codein ovviamente di Chicago, e quindi è da qui proprio che nasce l'alternanza e il binomio tra Chicago e Louisville. I Codein a Chicago e gli Slint a Louisville danno vita a questo slowcore che rallenta il tutto, quindi sfumature psichedeliche e forma canzone praticamente azzerata. Si procede più per frasi e per climax di intensità, ecco. Una cosa poi molto cara ovviamente a gruppi citati appena inizio di trasmissione come Sigur Rós, Mogwai, la parte poi un po' più conosciuta di questo genere. E degli Slint andiamo ad ascoltarci ovviamente da Spiderland l'esordio, la track iniziale, che è Breadcrumb Trail, e ci risentiamo dopo. Thank you. below a soiled pan. A bucket of torn tickets set aside. He watches the children run by. Ed erano gli Slint con Breadcrumb Trail, ovviamente da Spiderland, ritmi molto rallentati, atmosfere psichedeliche, e quella destrutturazione del rock classico che va proprio a superare l'hardcore. Ovviamente con gli Squirrel Bait le influenze hardcore erano ancora molto presenti. Invece con l'avvento degli Slint e dei Codein l'hardcore viene letteralmente superato e viene quasi metabolizzato. Molto, molto cara sarà poi questo fatto di metabolizzare questo percorso e dargli questa nuova forma, sarà molto caro poi ad una band seminale che risponde al nome di Neurosis, che ha principalmente iniziato con una forma hardcore o post-hardcore, per poi rallentare letteralmente i propri ritmi, ecco. Per quanto riguarda lo slowcore, gli altri pionieri sono i Codein, ovviamente, mai moniker forse fu più, fu più appropriato di questo, proprio un elogio della lentezza, come spesso da molti affermato. E ovviamente con Frigid Stars del 91, stesso anno di Spiderland, andiamo sempre a rallentare le ritmiche, si va a destrutturare, però a rendere ancora più catatonico il tutto. C'è un'atmosfera molto più doom nei Codein, ritmiche doom, chitarre distorte come quelle degli Slint, però un'attitudine ancora più più lenta, per così dire. E dei Codein andiamo ad ascoltarci proprio da Frigid Stars il pezzo Cave-In. Ci risentiamo dopo. Last night I dreamt your face, the skin was falling off, the flesh was turning gray. This is a cave. Take so long, so let me help it some. These things take so long, so let me help it some. Erano i Codein con Cave-In. Negli Slint, oltre a Brian McMahon, facente parte degli Squirrel Bait, militava anche un certo David Paggio, che diede vita poi, anzi non diede vita, però partecipò a quello splendido progetto di nome Tortoise, e secondo molti forse il progetto che più di tutti ha superato la concezione di rock stesso, proprio perché è andato a destrutturarlo non in quanto a ritmiche e rallentamenti e dilatazioni come per Codein e Slint, bensì miscelando generi fra i più disparati. Nella traccia che andremo ad ascoltare, appunto dell'album Millions Now Living Will Never Die del 1996, la prima traccia, Jed, è un esempio di mescolanze di stili veramente alieni fra di loro, con un risultato veramente incredibile. Un basso dub, una propensione al krautrock tedesco di Kahn e Noi, e anche tastiere un po' glitch, anticipando di molto certe sonorità elettroniche che di lì a poco si saranno rivelate poi molto, molto importanti. E, i Tortoise senza dubbio hanno eccelso in questo in questa mescolanza, in questo mix di generi veramente diversi fra loro. E non c'è mai stata una stabilità nell'organico dei Tortoise, forse anche questo è il segreto di questa loro versatilità. E ovviamente l'album è un viaggio dove si può anche ritrovare del blues, dei generi molto molto molto classici, mischiati appunto con sonorità molto moderne, appunto come la dub, come il glitch. La traccia si chiama Jed ed è direttamente dall'album Millions Now Living Will Never Die del 1996, e loro sono i Tortoise, e noi ci risentiamo dopo. Thank you. Ed erano i Tortoise con Jed. Abbiamo iniziato con gli Squirrel Bait, gli Slint da Louisville, poi siamo andati a Chicago con Codeine e Tortoise. Ora ritorniamo di nuovo a Louisville con un gruppo seminale come i Juno 44. Juno 44, band di Louisville, quindi in Kentucky. che vede vede membri sia di Codein che di Rodan, una formazione molto sottovalutata che rispolvereremo poi alla fine della puntata. E, c'è da dire che ovviamente a Louisville i gruppi andavano sciogliendosi presto, anche gli Slint stessi si sono sciolti praticamente subito dopo Spiderland, andando a rifondare sì altri gruppi, però ebbero principalmente tutti quanti vita breve, mentre a Chicago band come i Tortoise avevano una costanza un po' più importante. Il fatto che i Juno 44 con principalmente 4 Grit Points del 98 siano arrivati a rimescolare la lezione di quei gruppi è una cosa abbastanza importante, come vedremo poi per gli sviluppi anche dal 98 in poi. Da 4 Grit Points andiamo a sentirci Of Information and Belief e ci risentiamo dopo. Thank you. torniamo qui dopo aver sentito Of Information and Belief dei Juno 44, trasferendoci in un'ala del post rock molto ambientale, ecco, molto più dilatata paradossalmente di quella di Codeine e Slint, molto distante da Juno 44, Shellac e Tortoise, anche perché poi il post rock semplicemente diventerà sostanzialmente un'attitudine, e le derivazioni poi musicali daranno vita a formazioni molto diverse fra loro. Si può dire che i Lab Radford abbiano imparato la lezione di quei gruppi fondamentali della scena post rock di Louisville e Chicago, però facendola propria e dando vita a un approccio molto cosmico, molto dilatato, molto debitore a artisti quali Klaus Schulze, Tangerine Dream, lo stesso Brian Eno, e quindi una scuola molto devota a un suono elettronico debitore della drone music, e quindi atmosfere dilatate portate all'estremo. Addirittura alcuni album dei Lab Radford sono principalmente delle strumentali, senza voce, con dei temi che vanno in loop, che si ripetono molto spesso e che però creano dei tappeti sonori veramente incredibili. Appunto, i Lab Radford americani, direttamente dalla Virginia, sono un duo strumentale, e come discografia possiamo consigliare Precision, che nel 93 sconvolse una parte di affezionati al post rock. Invece il pezzo che andremo ad ascoltare fa parte di Mi Media Naranja, un album del 97, con titoli che sono principalmente, anzi unicamente, delle lettere, delle consonanti. Andiamo a sentirci appunto P da Mi Media Naranja, e loro sono i Lab Radford. Noi ci risentiamo dopo. Thank you. siamo tornati di nuovo qui dopo aver sentito i Labraford. Ora andiamo a spostarci su un altro sottogenere del post rock con dei pionieri del post rock, ossia gli Shellac, coloro i quali hanno dato vita poi a un sottogenere chiamato Matt Rock, e che oggi vede Don Caballero, Battles, Ella come esponenti più influenti. Un post rock molto più duro e aggressivo, spigoloso, a tratti geometrico, con strumentisti veramente ipertecnici, che danno vita appunto a trame molto, molto ragionate, molto, molto geometriche appunto. Andiamo a sentirci da 1000 Hearts degli Shellac del 2000, Watch Song, mentre poi andiamo direttamente a sentirci da Rusty dei Rodan del 94, The Everyday World of Buddy, e ci risentiamo dopo. torniamo dopo aver ascoltato Shellac e Rodan per tornare a sonorità un po' più vicine all'inizio, ossia Codein, Slint, a quella a quel genere chiamato slowcore. Stiamo parlando dei Radau Spenters di Mark Kozelek, un personaggio, una personalità abbastanza travagliata di quegli anni, gruppo che con Down Colorful Hill ha dato vita a sonorità molto simili a quelle di Low e forse quell'ala un poco più minimale e intimista del post-rock. Down Colorful Hill del 1992, andiamo proprio a sentirci la title track e ci risentiamo dopo. Thank you. torniamo qui dopo aver sentito appunto i Raidaus Panthers con un altro gruppo seminale, sempre appartenente a quella schiera di gruppi che hanno dato vita a sonorità, per così dire, slowcore, molto low-fi. Loro sono i Low, direttamente da Duluth, in Minnesota, la città di Bob Dylan. Hanno principalmente rallentato i ritmi anch'essi, come i Codeine e gli Slint avevano già fatto, solo che la loro attitudine è ancora più intimista e molto più melodica. Diciamo che le sonorità distorte e acide di Slint e Codeine qui lasciano il passo a una melodia sostanziale di fondo che è utilizzata per straniare l'ascoltatore e quasi cullarlo. Quindi ritmi sempre dilatati e sonorità molto eteree, come anche i mezzi Star o i Licia, dei quali magari potremmo ascoltare qualcosa in qualche altra occasione. Loro sono i Low e da I Could Live in Hope ci ascoltiamo Lullaby. erano i Low con Lullaby. Andiamo a concludere questo percorso, ovviamente parziale, di un genere infinito, con derivazioni veramente fra le più inaspettate. Andiamo a chiuderlo con un gruppo che esula dal contesto di Louisville e di Chicago, e anche dal contesto americano, perché ci spostiamo in Australia, a Melbourne, però andando ad ascoltare un gruppo che ha trasfigurato le ritmiche e le sonorità post rock, aggiungendo un elemento molto, molto particolare come il violino in queste atmosfere. E loro sono i Dirty Three, appunto da Melbourne, Australia, con un album interamente dedicato all'oceano, che loro ben conoscono, si chiama appunto Ocean Song. E andiamo ad ascoltarci l'apertura del disco, ossia Sirena, e vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre su www.transizionedifase.org, con Pink Moon. E alla prossima!